Non capisco perché tu debba trattarmi come una merda ogni volta che ti chiedo una cosa gentilmente. La prendi sempre come una sfida. Non ti ho chiesto il capone per questa operazione, ti ho chiesto Samuel che sta dietro l'angolo. Sì, lo so che è professionale, ma perché io che sono una merda? No, no, dimmi solo, fammi solo capire se sono una merda. Quello che sto dicendo è che sei un gangster, cazzo, un gangster, lo capisci? Cioè, non sei un cazzo di soprano wagneriano, sembra un cazzo di lead di Wagner ogni volta che parlo con te. Wir sind die große Organisation Deutschlands. No, guarda, anzi, mi dispiace che sto qui poco tempo e non posso andare in analisi perché altrimenti potrei raccontare al mio terapista tutte le fantasie che ho avuto su di te in questi giorni. E credimi, non sono fantasie erotiche. A non parlarmi di egoismo e cecità, voi tedeschi state facendo un party coi cadaveri sul pavimento dal 1946, no? Non parlatevi di sensi di colpa rimossi, il vostro cattivo gusto è il miglior testimone dei vostri sensi di colpa irrisolti. Beh, come disse Virginia Woolf, è un balbettio senza senso, eppure è quello che volevo dire. Sì, lo so che Virginia Woolf era lesbica, sono un uomo di cultura. No, non sono un criminale e un uomo di cultura. Sono un criminale perché sono un uomo di cultura. E adesso interromperei la conversazione perché i lead wagneriani mi stanno veramente sui coglioni, guarda. Brecht è l'unico tedesco con cui vado d'accordo in questi giorni. Mi piace molto quello che dice sull'opera e sul musical. Ti piace? Beh, bello. Mi sembra un bel modo per superare i postumi di questa cosa che ti è capitata, no? Superare i postumi. Sai dove si usa un sacco questa espressione negli ultimi giorni? In Cina. A Shanghai sono tutti incazzati perché Pechino ha avuto le Olimpiadi e loro sono stati come oscurati, ma Shanghai è la vera città attiva e propositiva in Cina. Quindi che succede? A 4 giorni dalla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Pechino, a Shanghai inaugurano il più alto grattacielo cinese, il terzo in tutto il mondo. Pechino 1, Shanghai 1. E a settembre che succede? Inaugurano la più grande mostra d'arte contemporanea di tutta l'Asia, che se ci pensi è la diretta conseguenza del fatto che a Shanghai hanno investito le più grandi case di moda, banche, studi di consulenza legali. Shanghai 2, Pechino 1. Il problema è, nella mia situazione, io sono Shanghai? Sono io Shanghai o non sono un cazzo? Beh, non lo so se sei Shanghai, però questo monologo mi sembra scritto bene, no? Chi sei? In che s... Nel monologo. Ah, il personaggio che parla nel monologo. Sì. È uno scienziato che fa ricerche sulle nuove frontiere dell'alimentazione e lavora per certe multinazionali, ma le multinazionali non sempre sono contente delle direzioni che prende il suo lavoro. E questo scienziato nel tempo libero si dedica all'arte concettuale, cioè va in ricerca dei sentieri che permettono di passare da uno stato-nazione all'altro evitando i controlli doganali e di firma. Cioè, filma i sentieri e li mette su internet, su siti che sono consultabili solo da computer pubblici. E che succede un giorno? Mentre va alla ricerca di uno dei suoi sentieri speciali, si imbatte in un campo di medici senza frontiere con delle caratteristiche molto sospette. Infatti, a dirigere il campo c'è il presidente di Medici Senza Frontiere in persona. Perciò da lì nasce un conflitto, conflitto, conflitto. E chissà come cazzo va a finire la storia. Non pensi che sia una merda questa storia? No, dai, dimmi la verità, se dici che è una merda non mi offendo. Secondo me sei teso. Vuoi che ti faccia un massaggio? E dillo, ma che cazzo, scusa, mi bocciano un progetto di ricerca a 2 passi da qui nel bacino della Ruhr e io che faccio? Vado a sperimentare le pratiche innovative delle sale giochi per ricchi nelle città globali. Vabbè, a Londra pagano bene, Ah no? sì, ma la frustrazione, gli inglesi. Voglio dire, ti imbarchi come scienziato che fa il consulente per un drammaturgo che deve scrivere questo testo a tema scientifico. Siccome però il primo giorno che si fa brainstorming in teatro e il drammaturgo è a corto di idee e tu sei tanto incazzato per cui chiedi di provare a scrivere un monologo che ti viene decentemente, ma solo perché sei incazzato, non perché hai tecnica teatrale. Questi stronzi che fanno? Leggono il monologo, licenziano il drammaturgo e commissionano il testo a te che non ci capisci un cazzo di drammaturgia. Che cazzo, te lo chiedi, no? Fu vera gloria? E questa cosa che mi hanno dato da scrivere, poi sembra minimamente una commedia alla De Filippo. Dico, è una commedia di De Filippo tutta povertà e tentativo di riscatto. No, questa non è una commedia di De Filippo. Sono io il personaggio di una commedia di De Filippo. Io sono il poveraccio. Ma scusa, io potrei dirti, guarda me. Perché? A te il tuo lavoro piace, no? Tantissimo. ma alle volte è pesante. Stai alludendo a me? Non fare complimenti. No, io non dico, no, non dico niente a nessuno, credimi. Non è che anch'io mi trovi sempre benissimo con voi escort di alto bordo, sai. Ma guarda, puoi anche dire marchetta, non mi offendo. Soprattutto le cose che fate all'inizio di un incontro, sempre le stesse. Portate da bere al cliente, gli chiedete se vuole che mettiate su un film porno. Le cose che fate all'inizio di un incontro sono le cose meno di alto bordo che fate. Ah, che fate? Al plurale. No, che fate chi? Senti, è la prima volta che vado a un secondo appuntamento con la stessa marchetta. In passato, ahimè, sempre una notte e via. Ah, e poi Einstein e Freud erano amici, lo sapevi? Cioè, non che voglia tracciare paralleli con... Sì, va bene. La situazione che ti è capitata a Londra comunque mi sembra abbastanza freudiana, no? A proposito di Freud, sai perché ho deciso di tornare da te? Stanotte ho fatto un sogno. Ti sei preoccupato? No. Ti sei preoccupato, dillo. No, non mi sono preoccupato. Va avanti. Va bene. Ero in strada e c'erano due lampioni, uno acceso e uno spento. Io all'inizio stavo sotto quello spento, poi mi spostavo e andavo sotto quello acceso, ma a quel punto quello acceso si spegneva e si accendeva quello spento, quindi mi spostavo di nuovo. E succedeva la stessa cosa, cioè quell'acceso si spegneva e quello spento si accendeva di nuovo, e io di nuovo mi spostavo. A un certo punto mi succedeva una cosa, arrivavi tu e mi dicevi... Stai attento, prendi la scossa. E tu prendevi la scossa? No, penso di no. Cioè, non è che mi ricordi molto. Sai che c'è? Hai presente Mark Rothko, il pittore? Ecco, lui diceva sempre: il senso del tragico è sempre con me quando dipingo. Eppure dipinse le tele per il Four Seasons, uno dei ristoranti più scintillanti di New York. Lui faceva una ricerca sul colore e i collezionisti che compravano i suoi quadri pensavano solo a quanto potessero star bene con le tende di casa. Non è una sorpresa che Mark Rothko si sia ammazzato. Beh, è per questo che ho inserito il gangster in quel monologo, perché in fondo io faccio la stessa cosa. Voglio dire, quando sono arrivato dall'Italia col mio primo progetto all'università di Bochum, quando ho seguito l'ennesimo progetto sperimentale, io ho dato l'idea di aderire al mondo scintillante della ricerca. Scusa, ma tu cosa studi esattamente? La materia oscura è l'energia oscura, che, oltre ad essere più o meno il 25% e il 70% di tutta la materia dell'universo, sono il sostituto più interessante di quella convenzione consunta che si chiama Dio. La materia standard, protoni, neutroni, elettroni e tutto il resto, raggiunge in tutto il 5%. È tutto vero, non ti sto dicendo cazzate. No, ci credo. Quindi questa materia oscura com'è? Deve essere in grado di passare attraverso la materia standard senza interagire minimamente con essa. Beh, un po' di particelle candidate a formarla ci sono, tutti con nomi interessanti, fotino, zino, xino. Nonostante tutto, per me la materia oscura è chiara. Anche se ci volessero secoli per un'osservazione scientifica approfondita, è una tecnologia che ci permetta di controllare lo spazio-tempo, di liberare il nostro spazio... E quindi tu studi il tempo, insomma, la natura del tempo? Sì, più o meno. La materia oscura che ti chiede di superare i limiti. Sono io. Che ti chiedo di starmi a sentire, però non parlo. Cioè, vedo unicamente, sì, però non parlo. E ti dico di prendermi al volo perché presto o tardi mi esaurirò. Che sei pazzo? Non ho solo un pensiero che mi piaceva. Senti, il pompino di prima. Perché mi hai detto voglio venire anch'io? Beh, sono stato abbastanza gentile a dirtelo, no? Scusa, io ero già venuto, voglio dire. Perché mi hai detto di continuare a... Mi prendi in giro, eh? È il mio lavoro. Sono stato gentile e ti ho detto di continuare. No, sai cos'è? Che tu il resto non lo puoi sapere. Il resto non lo devi sapere. Io questo lo faccio per lavoro, poi nel bene e nel male è indifferente. Che cazzo vuol dire nel bene e nel male? Ecco, vedi, l'economia smette di essere una cosa che guardi in televisione ed entra in carne e ossa nella stanza dove pensi di stare a scopare. Scusa, voglio dire, ma tu non ci trovi un'incongruenza nel fatto che il personaggio del monologo sia contemporaneamente uno scienziato dell'alimentazione e un gangster? Cioè, non è un problema questa... Ascolta. Senti, allora, questo monologo lo hanno accettato così com'è, no? Lo hanno accettato perché, non lo so, perché ti stava addosso, perché, ecco, perché l'ha scelto la tua rabbia. Tu immagina questo, il tuo monologo è come un vestito scultoreo e meraviglioso. L'hai visto in una vetrina, ci hai pensato con attenzione e l'hai comprato. Sai che c'è dietro questo monologo? C'è la paura e la prospettiva di finire a lavorare come subproletario nell'industria della scienza che oggi crea esperimenti lunghi che vanno oltre la vita degli scienziati. Va bene, ascoltami, da precario a precario. Dio, ahimè, non sono capace di portare una persona in un bosco a camminare e spifferargli tutti i miei segreti più intimi con la voce della neutralità e della serenità forzata. Semmai nel bosco ci vado da solo e parlo con qualcuno che mi sta dentro e proietto fuori di me. Immagino che tu fai più o meno la stessa cosa in un altro bosco, con un altro passo, prendendo un'altra direzione, proiettando qualcuno che conosci. Beh, ci devi pure aver camminato in qualche bosco prima di decidere di venirtene dall'Italia fino qui ad Amsterdam. Ecco, io volevo sapere che ne pensavi di questo progetto. Se io domani mattina andassi in uno zoo ed entrassi dentro la gabbia di una tigre e mi facessi sbranare? Spettacolare. Spettacolare. Beh, Renzo Piano direbbe: creare forme spettacolari non è molto difficile. Il difficile è creare forme spettacolari che abbiano un senso. Ecco, io cerco un ibrido che stia tra il suicidio e la calamità naturale. Cazzo, era proprio da starci a Londra davanti all'edificio della Lehman Brothers a Canary Wharf il giorno del casino a guardare tutta questa folla di manager licenziati ubriachi davanti all'All Bar One. Beh, tra l'altro era uno dei miei bar preferiti, ci andavo sempre a bere qualcosa quando avevo dei soldi e tempo. Farà una brutta fine adesso. Beh, certo, Londra campava quasi per un terzo della sua economia sui servizi finanziari e professionali, gli uomini dell'alta finanza bevevano bottiglie di alcol e cappuccini a prezzi esorbitanti e adesso? No, le forme spettacolari di associazionismo che abbiamo in Italia, quelle sì che hanno senso, la mafia, la camorra, l'andrangheta, la massoneria, il Vaticano. Sì, beh, certo, abbiamo fatto invenzioni anche marginali nell'arco della nostra storia, però. Sai, un po' di giorni fa ero a un ricevimento dell'Istituto Italiano di Cultura di Dortmund e ho incontrato questo prete, Don Ottaviano e qualcosa, della missione cattolica di Essen, che ci spiegava in uno strano accento veneto che quanto è difficile gestire una missione cattolica in Occidente. Sai, devi fare cose non troppo untuosamente religiose. E continuava a usare un aggettivo molto strano, megalattico. E continuava, perché sai, qui è megalattico, qui è megalattico. Tu adesso penserai che me lo sono inventato, ma ti giuro è tutto vero. A un certo punto mi sono avvicinato e gli ho detto: senta, non si dice megalattico, si dice megagalattico. Certe persone prima di dire le parole dovrebbero scriverle. Stai alludendo a me? Guarda, non ti No, preoccupare, se vuoi che me alludevo ne al vada. prete, alludevo al prete. Dico, c'è gente che riesce a perdere peso o mantenersi in forma semplicemente annotando su un diario quello che mangia, per questo lo dicevo. Vabbè, se facessero lo stesso con le parole le appunterebbero dopo averle dette, ma tanto non servirebbe un cazzo. E poi il cibo oggi fa molta più paura delle parole, sai? Lo sai che cazzo mi ha detto il presidente della fondazione bancaria del mio paese non molto tempo fa? Una vecchia frocia velata sui 70 anni. Ah, guarda, quella Beh, generazione. insomma. Scusami, stavi. No, niente, niente. Insomma, dicevo che ero incazzato perché non mi aveva rinnovato un finanziamento e tu hai presente Cattelan? Dai, quell'artista che fa quelle opere tipo il Papa colpito dall'asteroide, Hitler inginocchiato o Kennedy infilato dentro una bara. Beh, insomma, gli ho detto, tutto furioso: Presidente, sa che mi era venuto in mente? Io potrei arrivare a Maurizio Cattelan. Lei lo conosce, vero? Lui. Insomma, gli ho detto: beh, ecco, perché su quel bellissimo balcone settecentesco della fondazione non si fa fare una statua di lei a grandezza naturale con i calzoni calati mentre fa vedere il culo? Se lo immagina, tutte le macchine che passano davanti al balcone. Sai che cosa mi ha risposto lui? È una bellissima idea. Un modo per spiazzare i critici e poi l'arte oggi è l'unico bene e rifugio. Non era da escludere che potesse piacergli un'idea del genere, no? Mio Dio, come si fa ad aprire gli occhi? Cioè, come si fa a reagire al prete, al capo della fondazione bancaria? Cioè, come si fa a reagire a una complessità che riesce a regolare così bene il livello di trash nella sua comunicazione? Caso qui bisognerebbe infilarsi in qualche guerra africana, farsi inculare da qualche soldato inferocito, farsi mangiare gli occhi e poi tornare in Occidente a farsi assistere, con un bastone e una badante che ti aiutano a camminare. Sì, insomma, una specie di azzeramento che possa darti di nuovo l'idea della direzione. Certo, potrebbe essere il finale brechtiano della commedia che mi hanno commissionato a Londra, no? Col protagonista completamente cieco che si rivolge a chi lo assiste e gli fa: sai, l'altra notte ho sognato che ero in una casa del Cinquecento. Dovevo... Forse ero ospite di qualcuno, ma allo stesso tempo sentivo che quella casa era mia e mi avventuravo per una piccola stanza, o no, forse era un corridoio, ma insomma non aveva niente di angusto e lì c'era una finestra da cui vedevo una fontana antica con dei delfini che ci nuotavano e ci saltavano dentro. E io dicevo tra me e me: strano, quella fontana non me la ricordavo. Beh, così bella, eppure non mi ricordavo di avere in casa mia quella fontana. Bello, no? Ah, in quale ristorante andiamo stasera? Ah, devo prendere l'ombrello? Ah, com'è la notte? E l'assistente risponde: è chiara. E il protagonista fa: è chiara. E allora facciamoci sti quattro passi. E zoppicando esce. Ti piace? Sì. Veramente preferivo il monologo iniziale. Vedi, io non avrei neanche bisogno di pagare per scoparmi dei ragazzetti appariscenti come te, ma il fatto è che per me il sesso è una cosa che può convivere tranquillamente, e quando dico tranquillamente intendo tranquillamente, con l'amicizia. Vabbè, sì, ammettiamolo, io ho un certo carisma con le parole, ma... Sai che ho la sensazione che qualcuno all'inizio sia venuto a letto con me solo per dirmi che era mio amico, cioè che mi voleva bene. A volte ho anche litigato prima di scopare, quindi mi sono arrivato addirittura a pensare che qualcuno mi scopasse per dirmi che era dispiaciuto dei fraintendimenti che c'erano stati tra di noi. Beh, ma c'è sempre la differenza di età e vabbè, diciamolo pure, c'è proprio una differenza di quoziente intellettivo. Per cui i miei partner giovani e carini molto spesso cominciano a pensare alternativamente A, che mi sto innamorando di loro, B, che sono loro amico solo perché me li voglio scopare. E anche nella mia intimità più intima le cose si fanno difficili. La mia vita è una lotta per liberarmi dalla coerenza. Ma dai, come sta andando? Ci sono sempre ostacoli che non ti aspettavi. Lo vedi quello specchio laggiù? Mm-hmm. Dietro c'è una macchina fotografica. Alla fine delle notti, ma solamente con i clienti con cui mi trovo bene, io mi prendo un po' di tempo e mi scatto una foto. Oddio, adesso non ti dirò se tu fai parte di quella schiera di clienti con cui mi trovo bene o quella con cui mi trovo male, però... No, niente, volevo fartelo sapere. Oddio, non dirlo in giro, Però io mi metto in una posizione rilassata e mi scatto una foto. Sai che c'è? A me piace l'idea che... Non lo so, magari fra un po' di anni... Aprendo un vecchio libro. E dimmi una cosa, com'è la notte nelle foto che ti scatti quando sei rilassato? È come per te la materia oscura. È chiara. Già, la materia oscura è chiara. But I'm a